Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Era una chiesa minuscola, non più grande del salotto d'un benestante. Le panche non avevano lo schienale e poiché la congregazione dei fedeli faceva anche da coro, non aveva bisogno di stalli. Ad alcuni era stato affidato l'incarico di costruire una pedana per innalzare il predicatore di qualche centimetro rispetto ai fedeli, ma era un compito tutt'altro che urgente, visto che all'elevazione più importante, quella d'un crocefisso bianco di quercia, era già stato provveduto. Prima di diventare la chiesa del Sacro Redentore, il posto era una drogheria, che non aveva vetrine laterali per esporre la merce, solo quelle davanti. Queste erano state ricoperte temporaneamente con della carta, mentre i fedeli decidevano se pitturarle o metterci delle tende, su come mantenere una certa riservatezza senza rinunciare a quel poco di luce che avrebbe potuto illuminarli. D'estate si lasciavano le porte aperte per avere un po' d'aria. D'inverno una stufa di ghisa, in mezzo al corridoio centrale, faceva quel che poteva. Davanti alla chiesa c'era una solida veranda, dove solevano sedersi i clienti, e i bambini ridevano del ragazzo di turno che, giocando, restava con la testa incastrata nella ringhiera. A gennaio, se la stufa di ghisa era spenta, se c'era il sole e non s'alzava il vento, a dire il vero faceva più caldo fuori che dentro. Lo scantinato umido era abbastanza caldo, ma non c'era la luce a illuminare il pagliericcio, il catino e il chiodo per appenderci gli abiti. E una lampada a olio in uno scantinato era triste. Così Paul D sedeva sui gradini della veranda e una fonte di calore supplementare era la bottiglia di liquore infilata a forza nella tasca della giacca. Calore e occhi arrossati. Teneva i polsi tra le ginocchia, non perché gli tremassero le mani, ma perché non sapeva a che cosa aggrapparsi. Una volta, nel Maryland, aveva conosciuto 4 famiglie di schiavi che erano state insieme per un centinaio d'anni. Bisnonni, nonni, madri, padri, zie, zii, cugini, bambini. Mezzi bianchi, parzialmente bianchi, tutti neri, indiani di sangue misto. Li osservava con ammirazione e invidia. E ogni volta che scopriva delle famiglie numerose di neri, si faceva ripetere e chi era questo e chi era quello, in che rapporto familiare erano, chi in realtà era parente di chi altro. «Quella lì è la mia zietta, questo qui è suo figlio. Laggiù c'è il cugino di mio papà. Mia madre si è sposata 2 volte. Questa è la mia sorellastra e questi sono i suoi 2 bambini. Bene, mia moglie...» Lui non aveva mai avuto niente di tutto questo. E essendo cresciuta a Sweet Home, non ne aveva sentito la mancanza. Aveva i suoi fratelli, 2 amici, baby sax in cucina, un padrone che gli insegnava a sparare e stava a sentire quel che avevano da dire, una padrona che gli faceva il sapone e non alzava mai la voce. Per 20 anni erano vissuti tutti in quella culla, finché Baby non se n'era andata. Era arrivata a Seth e se l'era presa Hall. Era rimasto vivo per cantare delle canzoni che assassinavano la vita. Osservava un pioppo che glielo confermava e mai, neppure per un attimo, aveva creduto di poter scappare, finché non aveva piovuto. E poi, dopo che il Cherokee gli aveva indicato gli alberi in fiore e gli aveva detto di correre in quella direzione, non voleva fare altro che spostarsi, andare, riprendere forza per un giorno ed essere da qualche altra parte il giorno successivo. Era rassegnata a una vita senza zie, cugini, figli, senza neanche una donna, finché non c'era stata Seth. E poi lei l'aveva fatto andar via di casa. Proprio quando i dubbi, i dispiaceri e tutte le domande possibili a cui non c'era stata risposta erano stati accantonati, molto tempo dopo che aveva creduto di aver deciso di voler esistere, proprio quando voleva mettere radici, lei lo aveva fatto andar via. L'aveva spostato da una stanza all'altra, come un fantoccio. Seduto sulla veranda di quella chiesa drogheria, un po' brillo e alquanto sfaccendato, Paul D poteva dedicarsi a quei pensieri. Pigre congetture che tagliavano in profondità e non offrivano niente di solido a cui un uomo potesse aggrapparsi. Così si teneva i polsi. Si era avvicinato alla vita di quella donna, vi era entrato e aveva permesso che la sua vita entrasse in lui. Tutto ciò lo aveva preparato alla successiva caduta. Voler vivere tutta la vita con una donna per lui era una cosa nuova. E non provare più quella sensazione lasciava spazio al pianto e a quei pensieri che non portavano a niente. Quando se ne andava vagando da una parte all'altra, pensando solo al prossimo pasto e alla prossima notte di sonno, quando tutto era ben rinchiuso nel suo petto, non provava nessuna sensazione di fallimento, nessuna sensazione di cose che non funzionassero. Se una cosa funzionava appena appena, funzionava già. Ora si chiedeva che cosa mai fosse andato storto. Come va? Stampede si stava ancora rigirando tra le dita il nastrino e si vedeva il lieve movimento della sua mano nella tasca dei pantaloni. Poldi alzò lo sguardo, notò il rimestamento nella tasca e sbuffò. Non so leggere, se mai portato un altro pezzo di giornale perdi solo tempo. Stamp tirò fuori il nastrino e si sedette sugli scalini. No, questo qui è qualcos'altro. Carezzò delicatamente la stoffa rossa tra il pollice e l'indice. È qualcos'altro. Poldi non disse niente. Così i due uomini rimasero seduti in silenzio per qualche attimo. «È una cosa difficile per me», disse Stamp, «però devo farlo. Ci sono due cose che ti devo dire. Comincio con la più facile». Poldi soffocò una risata. «Se è difficile per te, io posso restarci secco». «No, no, no, non è niente del genere. Sono venuto a cercarti per chiederti perdono, per scusarmi». «E di che cosa?» Poldi infilò la mano nella giacca per prendere la bottiglia. «Scegli qualunque casa, eh? Qualunque casa dove ci sia gente di colore. Scegli qualunque casa e se vuoi starci sarai il benvenuto. Mi scuso per loro se non te l'hanno detto prima e non si sono offerti, ma tu sei il benvenuto dovunque vuoi stare. La mia casa è anche la tua. John ed Ella, Miss Lady, Abel Woodruff, Willie Pike, chiunque. A te la scelta. Non devi dormire in uno scantinato e mi scuso per ogni notte che ci hai dovuto dormire. Non so come mai il predicatore t'abbia lasciato dormire lì. Lo conosco da quando era un ragazzo. Alto là, Stamp. Lui si è offerto ad ospitarmi. Davvero? E allora? Allora non volevo... Volevo solo starmene un po' per i fatti miei. Ma lui si è offerto ad ospitarmi. Lo fa sempre, tutte le volte che mi vede. Questo mi toglie un gran peso. Pensavo che fossero impazziti tutti. Poldi scosse il capo. Solo io. Hai idee di fare qualcosa? Oh, sì, delle grandi idee. Ingollò due sorsi dalla bottiglia. Qualsiasi idea in una bottiglia non va lontano, pensò Stamp, però sapeva, per esperienza personale, l'inutilità di dire a una persona che beve di non farlo. Soffiò per liberare il naso e cominciò a pensare alla seconda cosa che aveva da dire. Quel giorno c'erano in giro pochissime persone. Il canale era ghiacciato e quindi anche il traffico fluviale si era fermato. Udirono il rumore degli zoccoli di un cavallo che si avvicinava. Il cavaliere sedeva su una sella alta dell'est, però ogni altro particolare in lui faceva pensare a uno dell'Ohio Valley. Mentre passava li osservò e improvvisamente tirò le briglie del cavallo e avanzò lungo il vialetto che portava alla chiesa. Si chinò in avanti. «Ehi voi!» Stamp ripose il nastrino in tasca. «Sì, signore? Cerco una ragazza di nome Judy. Lavora giù al mattatoio. Non credo di conoscerla, signore. No, signore. M'ha detto che abita in Plank Road. Plank Road? Sì, signore. È un po' distante, un chilometro forse. Non sai chi è? Judy. Lavora al mattatoio. No, signore. Però so dov'è Plank Road, a circa un chilometro, da quella parte». Poldi sollevò la bottiglia e trangugiò una sorsata. L'uomo a cavallo andò con lo sguardo prima a lui e poi a Stampede. Allentando la briglia destra, fece voltare il cavallo verso la strada. Poi cambiò idea e tornò indietro. «Senti un po'», disse a Paul D. «Lassù c'è una croce, perciò credo che questa qui sia una chiesa o che lo fosse una volta. Mi sembra che dovresti mostrare un po' di rispetto, non trovi?» «Sì, signore», disse Stampede. «Ha proprio ragione, è proprio quello che ero venuto a dirgli, proprio così!» Il cavaliere fece schioccare la lingua e partì al trotto. Stamp disegnò dei cerchietti nella palma della mano sinistra con due dita della destra. «Hai solo da scegliere», disse. «Scegli tu. Ti lasciamo in pace, se è quello che vuoi. La mia casa, quella di Ella, di Willy Pike. Nessuno di noi ha un granché, però il posto per un'altra persona l'abbiamo tutti. Puoi dare qualcosa, se puoi. E se non puoi, non fa niente. Pensaci su. Sei grande. Non posso farti fare quello che non vuoi, però pensaci su». Paul D non disse niente. «Se t'ho fatto del male, sono qui per aggiustare le cose». «Non ce n'è bisogno. Non ce n'è proprio bisogno». Dall'altra parte della strada passò una donna con quattro bambini. Salutò con la mano sorridendo. «Ehi là! Non posso fermarmi! Ci vediamo alla riunione!» «Ci sarò!» disse Stampede, ricambiando il saluto. «Quella è un'altra!» disse rivolto a Paul D. «Scripture Woodruff, la sorella di Abel. Lavora alla fabbrica di spazzole Sego». «Vedrai! Resta da queste parti solo un po' e vedrai che in nessun posto al mondo trovi dei neri più dolci di questi qua. L'orgoglio, beh, quello gli dà un po' fastidio. Se la prendono un po' quando pensano che uno è un po' troppo orgoglioso. Ma quando viene il momento sono della brava gente e chiunque di loro t'ospiterebbe». «E Judy? M'ospiterebbe anche lei?» «Dipende. Che cosa vuoi dire?» «Conosci Judy?» «Judith? Io conosco tutti. Quella che sta in Plank Road. Tutti. E allora? Pensi che m'ospiterebbe?» Stamp si chinò per slacciarsi la scarpa. 12 ganci neri, 6 per parte in basso, portavano 4 paia di occhielli in alto. Allentò i lacci fino in fondo, sistemò con cura la linguetta e li strinse di nuovo. Quando arrivò gli occhielli, arrotolò con le dita la punta dei lacci prima di infilarli dentro. «Ti racconto come mai mi chiamo così». Il nodo era stretto e così anche il fiocco. «Mi chiamavo Joshua», disse. «Mi sono cambiato il nome e ora ti dico perché l'ho fatto». E gli raccontò di Vashti. «Per tutto quel tempo non l'ho mai toccata, nemmeno una volta. Quasi un anno. Eravamo alla semina quando è cominciata e al raccolto quando è finita. Ma mi è sembrata più lunga ancora. Avrei dovuto ucciderlo. Lei mi ha detto di no. Però avrei dovuto farlo. Non avevo la pazienza che ho adesso. Però mi immaginavo che forse c'era qualcun altro che non aveva pazienza. Sua moglie. Mi son messo in testa di vedere se per caso lei la prendeva meglio di me. Io e Vashti stavamo insieme nei campi di giorno. E ogni tanto lei stava via tutta la notte. Non l'ho mai toccata. E che io sia dannato se in tutto il giorno le rivolgevo 3 parole in croce. Sfruttavo ogni occasione che avevo per andare vicino alla grande casa padronale per vederla, la moglie del signorino. Lui non era che un ragazzo. Aveva 17 anni, forse 20. Alla fine sono riuscito a vederla. Stava in piedi. Nel cortile sul retro, vicino allo steccato, con un bicchiere d'acqua in mano. Beveva e guardava lontano, oltre il cortile. Mi sono avvicinato. Mi sono fermato un po' distante e mi sono levato il cappello. Le ho detto: «Mi scusi, miss, mi scusi». Lei si è voltata a guardare e io sorrido. «Scusi, ha visto mia moglie, basti». Era una cosina da niente. Capelli neri, la faccia non più grande della mia mano. Ma ha risposto: «Che cosa?» «Mia moglie. Dice che vi doveva portare delle uova. Sa se ve le ha portate? Se la vede la riconosce subito. Ha un nastrino nero al collo». Allora lei diventa rossa. E a quel punto io sapevo che lei sapeva. Gliel'aveva dato lui, un cameo con un nastrino nero da mettere al collo. Se lo metteva ogni volta che andava da lui. Mi sono rimesso il cappello. Se la vede, le dica che ho bisogno di lei. Grazie, signora, grazie. E mi sono allontanato prima che potesse dire qualcosa. Non ho osato voltarmi indietro, finché non mi sono nascosto dietro certi alberi. Stava in piedi, esattamente come l'avevo lasciata. Guardava nel bicchiere d'acqua che aveva in mano. Pensavo che mi avrebbe dato più soddisfazione. Pensavo che lei poteva interrompere la cosa. Invece è continuata come prima. Finché un mattino, era una domenica. La domenica lavoravamo gli appezzamenti nostri. Si è seduta vicino alla finestra, guardando fuori. Sono tornata, mi ha detto. Sono tornata, Josh. Io l'ho guardata dietro sul collo. Aveva un collo proprio piccolo. Ho deciso di romperglielo. Così, come un fuscello. Romperglielo e basta. Ero caduto in basso, ma più in basso di così non ero mai andato. E l'hai fatto? Gliel'hai rotto? Oh, ho cambiato nome. Come hai fatto a scappare da lì? Come hai fatto ad arrivare qui? In barca. Ho risalito il Mississippi fino a Memphis. E poi da Memphis a Cumberland l'ho fatta a piedi. Anche Vashti? No. Lei è morta. Oh, no. Allacciati l'altra scarpa. Che cosa? Maledizione, allacciati la scarpa. Ce l'hai proprio sotto il naso, allacciala. Oh, questo ti fa sentir meglio. No. Poldi lanciò la bottiglia per terra e si mise a fissare il cocchio dorato che compariva sull'etichetta. Niente cavalli, solo una carrozza dorata ornata di stoffa blu. Ho detto che avevo due cose da dirti. Te ne ho detta solo una. Devo dirti l'altra. Non voglio saperla, non voglio sapere niente. Dimmi solo se Judy mi ospiterebbe. Io ero lì, Poldi. Dov'è che eri? Là, nel cortile. Quando lei l'ha fatto. Judy? Seth. Cristo, non è come pensi tu. Tu non sai quello che penso. Non è pazza. Vuole bene a quei bambini. Cercava solo di fare più male di chi le faceva male. Vattene. E ha esagerato. Stamp, lasciami in pace. La conosco da quando era una ragazza. Mi fa paura. E dire che la conosco da quando era una ragazza. Tu non hai paura di Seth. Non ti credo. Seth mi fa paura. Io mi faccio paura. E quella ragazza mi fa più paura di tutti. Chi è quella ragazza? Da dove salta fuori? Non lo so. Un giorno l'abbiamo trovata seduta su un ceppo. Ah, a quanto pare tu e io siamo gli unici al di fuori del 124 che l'hanno vista. Non va mai da nessuna parte. Dov'è che l'hai vista? Addormentata sul pavimento della cucina. Ho sbirciato dentro. Fin dal primo istante che l'ho vista non volevo averci a che fare. C'è qualcosa di strano in lei. Parla in modo strano, si comporta in modo strano. Poldi infilò le dita sotto il berretto e si grattò la testa sopra la tempia. Mi ricorda qualcosa, qualcosa che, a quanto pare, dovrei ricordarmi. Non ha mai detto di dov'è, di dove sono i suoi? Non lo sa, o meglio, dice di non saperlo. Tutto quello che l'ho sentito dire è che aveva rubato i vestiti che portava e che viveva su un ponte. Che razza di ponte? E a me lo chiedi. I ponti qui attorno li conosco tutti, però nessuno ci vive sopra, e nemmeno sotto. Da quant'è che sta da Seth? Dall'agosto scorso. Dal giorno in cui è venuto il circo. Ah, questo è un brutto segno. Era al circo? No. Quando siamo tornati l'abbiamo trovata lì addormentata su un ceppo. Il vestito di seta, le scarpe nuove di zecca, d'un nero come la pece. Davvero? Dalle parti di Deer Creek c'era una ragazza in una casa, prigioniera d'un bianco. L'estate scorsa l'hanno trovato morto e la ragazza era scomparsa. Forse è lei. La gente dice che la teneva chiusa là dentro da quando era una bambina. Bene, adesso è una puttana. È lei che ti ha fatto scappare, non quello che ti ho raccontato io su Seth. Poldi fu attraversato da un brivido di freddo. Un brivido nelle ossa che lo obbligò a serrare le ginocchia. Non sapeva se fosse per il cattivo whisky, le notti trascorse nello scantinato, la febbre suina, i morsi di ferro, i galli che sogghignavano, gli spari ai piedi, i morti che ridevano, il fruscio dell'erba, la pioggia, i meli in fiore, gli ornamenti al collo, Giudi nel mattatoio, Hall nel burro, le scale d'un bianco spettrale, gli alberi di ciliegio, i cammei, i pioppi tremuli, la faccia di Paul A., le salsicce o la perdita di un cuore rosso. Dimmi una cosa, Stamp. Paul D. aveva gli occhi lucidi. Dimmi solo questo. Un negro. Quanto deve sopportare? Dimmi, quanto? Tutto quello che può, rispose Stampede. Tutto quello che può. Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?